Il percorso è nato in quartiere quasi per caso, la notizia del supermercato girava da un po', non si sapeva bene quale sarebbe stato il supermercato e quali sarebbero state le modalità. L'unica cosa che sapevamo è che in realtà la destinazione d'uso di quel terreno era tutt'altra, e cioè era una destinazione d'uso data dal comune a questa ditta per costruire appartamenti, quindi uso abitativo ed eventualmente piccoli esercizi commerciali. La ditta chiese il cambio di destinazione d'uso in corsa e noi stiamo cercando di capire se il comune gliela data, gliela darà, gliela vuole dare, insomma è la cosa, però in quartiere alla maggior parte degli abitanti del quartiere non è piaciuta, e quindi inizialmente ci sono state delle riunioni spontanee, insomma ci siamo trovati in alcuni luoghi della Cirenaica, ci siamo contati e abbiamo scoperto di essere in tanti, non solo come cittadini ma anche come entità, perché in Cirenaica ci sono diverse entità che stanno aderendo a questa iniziativa, una delle quali ad esempio è Resistenza in Cirenaica, che è un collettivo di collettivi nato in quel del VAG 61 per raccontare la Cirenaica di ieri, quindi il colonialismo italiano in Africa, la resistenza in Cirenaica di oggi come quella del supermercato e la resistenza che c'è stata in Cirenaica anche rispetto al nazifascismo. Ecco, il progetto iniziale prevedeva anche un'area verde, un parco che è sparito? Ma adesso che sia sparito non ci metterei la mano sul fuoco, che sia ridimensionato o comunque totalmente cambiato, questo è sicuro. Guardando i progetti inizialmente sembrava che doveva esserci una parte, quella più adiacente ai binari, in cui veniva piantato del verde, però sai, questo vuol dire molte cose, insomma non abbiamo notizie chiare su questo. A noi cittadinanza, insomma a noi abitanti del quartiere, piacerebbe capire che tipo di verde ha in mente la ditta costruttrice. Ora però io farei un passo indietro, più che parlare di che tipo di verde ha in mente questo tipo di impresa costruttrice, direi che noi siamo proprio contrari al fatto che ci metta le mani questa impresa costruttrice per costruire un supermercato. Che poi ci voglia fare il verde è un altro discorso, però se tu vai in giro per la città, vai a vedere che tipo di verde è stato fatto attorno a questo tipo di costruzioni, ti accorgerai che sono un paio di alberi attorno a un'isoletta di cemento, non è proprio il massimo. Nel corso dell'assemblea di venerdì pomeriggio ci saranno diversi momenti importanti, tra cui lanciate una petizione e la presentazione di una mappa. Sì, il Zero in Condotta ha fatto una mappa dei supermercati in città che stanno spuntando come i funghi. Chiunque andando in giro per la città potrebbe anche rendersene conto molto facilmente. Stanno per costruire un supermercato alla fine di Ponte San Donato in Via del Lavoro, quindi praticamente in linea d'aria sono 100 metri dal supermercato che vorrebbero costruire qui, ma basta guardarsi intorno. L'altro giorno sono passato alla rotonda di Via dell'Industria, dove nel giro di 300-500 metri ci sono diversi supermercati e discount, e stanno costruendo un altro supermercato gigantesco. Ora quello che viene da domandarsi è perché, che cosa sta succedendo? Questa città sono anni che sta investendo in un certo tipo di turismo, in un certo tipo di cultura all'interno delle mura, no? Stanno puntando tutto sulla ristorazione, la città del cibo, hanno questo mantra qui adesso, no? E fuori dal centro, dove i quartieri sono praticamente relegati a dormitorio, stanno costruendo supermercati ovunque. Ora nel resto del mondo la grande distribuzione sta andando malissimo, negli Stati Uniti sta fallendo, stanno chiudendo, in Europa sta fallendo, sta chiudendo. Noi ci stiamo chiedendo che diavolo sta succedendo? Perché costruire, cementare, cementificare continuamente, proponendo un tipo di attività commerciale che non solo distrugge le piccole attività commerciali del quartiere, ma proprio ai quartieri stessi non serve a nulla, perché loro te la propinano come luogo di aggregazione. Ora, un supermercato sia un luogo di aggregazione mi pone in uno stato di, come dire, tristezza esistenziale senza precedenti. E poi, seconda cosa, te lo pongono antidegrado. Ora, tanto bisogna stabilire se veramente il degrado ci sia e in che termini, ma poi che un supermercato sia un presidio antidegrado è un'idea completamente folle e tutta loro. A proposito di food al posto di cibo, ricordiamo che il quartiere San Donato vede già quell'opera mastodontica che è Fico, che aprirà a novembre. Vabbè, rimanderei gli ascoltatori a vari siti d'approfondimento, a partire magari anche appunto da Zero in Condotta, Jap, il blog di Wuming, in cui si sono fatti degli approfondimenti su questa vicenda, che ha dei risvolti torbidi, più che poco delineati, proprio torbidi. Non lo so, io da cittadino, sto parlando da cittadino, da abitante, da residente in questa città da oltre 20 anni, mi sento un po' accerchiato, insomma, no? La città del cibo è veramente una declinazione che questa città in cui si sta buttando a capofitto. Ma questa qui era una città che produceva cultura, e non solo cultura enogastronomica. Ora sembra che l'unica cultura che siamo in grado di produrre sia questa, ma anche a livello standardizzato. molto massificato. Stanno arrivando un sacco di turisti in città perché è una destinazione che si trova in un punto, se vuoi, centrale, non da qui in un attimo sei a Firenze, sei a Milano, sei a Venezia, e da quando Ryanair ha fatto scalo in questa città i turisti sono aumentati. Ora questo lo stiamo pagando perché dovremmo fare delle opere inutili, mastodontiche, no? Penso al People Mover per fare in modo che questo flusso continui. Un giorno, se poi Ryanair chiude, cosa facciamo? Ci ritroviamo pieni di ristoranti in cui non va nessuno? Mi sembra che monopolizzare in questo modo la cultura e standardizzarla in questo modo per una città che ha un passato culturale come questa sia pura follia e sia un atto di cecità completo. Questa sta diventando dalla città del vorrei ma non posso, se non peggio, no, del potrei ma non voglio. Mi sembra che qui sia il caso di avere una nuova visione, una nuova progettualità. Basta andare in giro per altre città, no, nel resto d'Europa, ma forse anche in qualche modo e in parte, basterebbe anche prendere un treno e andare a Milano, guardarsi intorno che cosa sta succedendo. Certo, le proporzioni sono diverse, ma proprio per questo Bologna potrebbe essere molto più vivibile, no? Invece di pensare al cibo, forse sarebbe il caso di progettare la città in un altro modo. Mi sembra che i bolognesi abbiano un po' il bisogno di togliersi questi tortellini dalla testa, no?